era mezzogiorno e prigioniero, aspettavi che si fermasse il mondo. Fuori c'era il sole caldi odori e parole antiche di soldati. Forse vedevi la tua gente, Cuba viva sotto il sole, la sierra che ti ha visto vincitore. Addio, addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io ti ricorderò. Era mezzogiorno in piena notte e gli uomini di buona volontà tutti si guardarono negli occhi, poi ognuno andò per la sua strada. È troppo tardi per partire, troppo tardi per morire, siamo troppo grassi, comandante. Addio, addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io ti ricorderò. Era mezzogiorno e tu non c'eri, un bambino piangeva nel silenzio, fuori c'era il sole caldi odori e parole antiche di soldati. Oggi ti ricorda la tua gente, Cuba viva sotto il sole, la sierra che ti ha visto vincitore.